Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. C'è una frase che è strepitosa di una senatrice, una delle senatrici più importanti del 5 Stelle, che ha detto: a Roma ci fanno il complotto. Il complotto, ci vogliono far vincere. Quando è il tramonto. Cara Veronica Gentili, puoi cantare se vuoi, eh? Ho capito che era così che doveva andare. Dai. 7 giorni. Le coppie. Le finestre. So tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che si è fermato qui. Beh, vabbè, la maestà del Colosseo. Vedo la santità, la santità del cupolone. E so più buono. No, non te lasso mai, Roma capoccia. Vabbè, ma io le darei un 9, no? 8 e mezzo, 9. Un po' come al governo Renzi i primi 2 anni. 8 e mezzo, 9, dai, un bel voto. Poi appena sveglia, dai. Ma infatti. Buongiorno. Arriva subito un saluto dalla Pontina, il nostro ascoltatore dalla Pontina, che dice bravo, quando avrà sei bella Roma, bravo. Un bravo. Omaggio a Roma così. Città terremotata, bravo. Frase Bertolaso, Dixit. Lo so, quella Bertolaso è un'altra delle uscite che Salvini canta, c'è tempo per Bertolaso, canta. Canta stamattina. Quanto sei bella stamattina. No, oggi. Datemi la traccia. Per tempo si è fermato qui. La santità. No, è sempre maestà, è il Colosseo. Non l'hanno fatta ancora santo. Vedo la santità, che pure te. Vabbè. Più vivo. E so più buono, ma non te lasso mai, Roma capoccia. Ma è straordinario, perché puoi cantare al telefono, tenere il ritmo, il tempo. No, ma infatti un applauso. Ormai il pudore proprio così è andato. A Veronica 110 lode con bacio accademico. C'è anche un commento, un editoriale: cazzo, ma canta bene. Scusate la parola, ma insomma l'esclamazione. Non ci siamo preparati, posso fare di meglio. La prossima volta prepariamo il canto invece del selfie, così. Va bene, ci mancava la serenata. No, non abbiamo iniziato con la serenata, ma con Roma. Vabbè, in realtà dopo Renzi che imita la taverna c'erano anche da sentire altre cose. Senti qua. Vai. E le coppiette. Avremo tutti contro quando governeremo Roma, quello sicuramente ci sarà. In che ma senso noi vogliamo era un governare, complotto per farci noi vincere. Vogliamo governare Roma. E come le è venuto la traduzione di avremo tutti contro in un complotto per farci vincere? Beh, c'è un modo, si vuole affossare il Movimento 5 Stelle in questo senso. Quando governerà Roma. Non voglio fare torto ai miei concittadini aquilani, ma Roma è una città terremotata. E chi la ricostruisce? La ricostruisce chi Bertolaso. Vuole fare polemiche a livello politico con i suoi partner di area, o qualcuno che invece si è già gettato nella mischia nel passato, che ha messo la faccia, che magari ha pure sbagliato, che ha pagato per quello che ha fatto? Bertolaso. Allora, avete capito bene, insieme a Veronica Gentili c'è anche Angelo Maria Perrino, che per pietà ho risparmiato. Pietà, Angelo, buongiorno. Ciao, buongiorno. No, io per pietà. Canto, dici? Sì, esatto, ti ho risparmiato, non so, però vuoi cimentarti? No, io potrei dare un contributo alla batteria, una mia vecchia passione. Vabbè, sotto, però qui la batteria com'è? No, è complicato, indubbiamente. Effettivamente. Ti ho risparmiato, insomma, cantare Venditti. Ho visto che Veronica se la cava, però il testo la obbligava a entrare in controtempo, ahimè. Sì, ma sai, al telefono io le darei un 8.5. Deve ripassarsi il testo. Sì, d'altra parte ho visto il suo curriculum, è una collega con una esperienza anche artistica. Ma infatti, la nostra pensatrice, cara Veronica, eccoci qua. Allora... Soggetti ibridi, queste pensatrici. Contaminanti. Esatto. Contaminati e contaminanti. Esatto. Allora, siamo qui con 24 mattino alle 6:34 minuti, arrivano già tanti messaggi anche via WhatsApp al 349-238-6666. Date un voto a Veronica Gentili in audio, datecelo in audio via WhatsApp che noi vi mandiamo in onda, glielo facciamo sentire in diretta. Ma come mai adesso no? Vogliamo parlare di calcio? Preferisci il calcio? Deviazione! La palla si infila! Insigne. Pensa che l'ho messo al fantacalcio in panchina sta partita, ma ho vinto comunque, mi sa, mi ha segnato. Palla legata per Bonaventura! E andiamo! All'improvviso, al primo tiro in porta! E andiamo! Fa 1-1! Senti che silenzio al San Paolo. Ma Perrino, tra l'altro, tu sei juventino, sei gobbo? Sì. Eccala. Un altro di quelli che tifava ieri, che mi scrivevano: Dai, sì, fateci sì. un favore, ma ridicoli. Abbiamo guadagnato ridicoli. Il primato e non lo molleremo mai più. Ridicoli. Mi scrivevano palo. A palo. Chi ha fatto palo? Veronica, sai che ieri c'era una partita di calcio a Napoli? Sì, qualcosa mi è stato detto, ma guarda, ero troppo impegnata a documentarmi sulla polemica Spalletti-Totti, perché ieri ho detto, ragazzi, prima certo. che domani Milan mi comincia a dire, ma nemmeno a Roma ne sai niente. Ma tu stai ditemi con Spalletti po'. O con Totti? Dai, dici. No, già ieri ho chiesto chi era Spalletti, quindi considera già che ti posso dire, no? Quindi ho detto, ragazzi, c'ho un problema un attimo, che domattina faccio un'altra di queste figure. Mamma, stai con Spalletti a Totti, ma chi è Spalletti? Mi dicono che eticamente bisognerebbe stare con Spalletti, ma in realtà decore stiamo tutti con Totti. Ecco, hai capito, Perrino. Considera che non sono manco della Roma, ma quindi Perrino, facciamola vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ci può stare, ci può stare. Vero? Sì, io ho fatto un tweet ieri, mi sembrava sconcertante che le aperture di tutti i giornali fossero dedicate a questa Totti. Vicenda, sì, mi sì. sembra sconcertante. Sì, sì, dopo il debito pubblico e l'Europa c'era sì. poco dopo l'ISIS, sì. poi c'era Totti. Sì. Totti. Ho detto la situazione in Italia, come diceva Flaiano, è grave ma non seria. Ma non seria, come sempre. Sì. Certo. Ma in realtà è Milan che detta l'agenda dell'Italia, sì, e sapendo quali sono le sue priorità, la gente si adegua. capito? Chiaro, dice, poi la rassegna stampa la fa lui, di quello vuole parlare. Certo, di Totti. Sì. Oh, ragazzi, l'ombelico del mondo. Ma adesso fai un esperimento. Fate un esperimento. Andate su un tassì a Roma e ditemi di che parlano. Forza, tassisti, ditemi di che. Di Totti. Cioè, questo. No. Ma sì. Con me non ci provano nemmeno, ecco, perché capiscono che è un argomento su cui la conversazione si spegnerà tragicamente. Però c'è da discutere, cioè se comincia a dire signorina, certo che qua a Roma va tutto male, ma a lei non mi pare che va tutto male, così comincia, no? Pure Totti. Io su Affari Italiani noi l'abbiamo, diciamo, girata a mo' di inchiesta sul tema degli intoccabili, le bandiere come Totti. Stai attento che vai in un campo molto minato. Ricordato Maldini quando non voleva mollare, certo. Del Piero... De Bortoli, Muti. Tutti del Piero De Bortoli, bellissimo. Esatto, sì. Sì. Niente, sono queste bandiere che si identificano con la società, con l'azienda che guidano e non mollano ed è durissima, perché durissimo, il povero Spalletti, durissimo. E dunque anticipo il mio giudizio, io sto con Spalletti, chiamato a mettere in ordine una situazione e deve controllare. È incredibile, cioè, anche noi stiamo parlando di Totti, è incredibile, anche noi. Però facciamo così, apriamo il Parlamento, perché sono qui, quindi non esatto. So come stiate facendo. Ma infatti cambiamo subito argomento, apriamo il Parlamento e ci sono subito adesso i giudizi WhatsApp sulla serenata a Veronica Gentili, eccoli qua. Ci sono. Veronica è sicuramente da 10 e comunque grazie Milan per ieri sera. Eccola. Subito. Lo vedi? Subito. Io ho beccato il complimento e te subito un coltello nella ferita aperta. Vai. Esatto. Allora, vi chiedo subito, tanto è il periodo di voti, i 2 anni di Renzi, dai, datemi subito il voto al governo Renzi in questi 2 anni. Perrino, dai, dacci un voto su. Io direi 5.5. Sì, anche io gli darei un 5.5. Da Veronica 5 Gentili, sei meno meno. Sempre astiosa, avrei detto un 3.5 da te. Si diceva a scuola, potrebbe fare di più. Il ragazzo è intelligente, potrebbe fare di più. E questo no, infatti, mi aspettavo sei meno da te, meno, Veronica. Mi sei meno meno è troppo. Diciamo che rimaniamo su 5.5 va bene. 5.5, diciamo che la peculiarità principale per cui il voto si alza è la velocità. Tanto che a un certo punto però non si va anche a schiantare se non sta attento a dove va questa velocità, quindi più di quello non gli si può dare, perché poi ci sono dei buchi neri gravitazionali in quello che è stato fatto. Ma non so, per esempio, Angelo, cosa ti piace di quello che ha fatto Renzi? Per 5.5 sei meno meno, perché qualcosa di buono l'ha fatto. Il coraggio col quale ha sfidato le corporazioni, le lobby, indubbiamente ha avuto fegato. E poi la capacità di entrare nei dossier con molta freschezza e con molta lucidità, spaziando dall'asilo siciliano alla grande questione internazionale. Quindi sicuramente un uomo dalle vedute ampie e con una grande preparazione, però non ha una squadra adeguata. Ieri abbiamo indicato su Affari Italiani un'intervista di Lutzbach che propone un rimpasto e gli suggerisce di ricorrere ai grandi vecchi. Rimpasto fa una cosa molto, molto Prima Repubblica. So. Ma a Lutzbach, dopo l'ultima uscita su Reggiani, ancora non gli hanno tolto il diritto di parola? Eccola, vedi. Vi piacerebbe, come abbiamo proposto, attraverso le parole di Lutzbach, un governo che imbarchi Prodi alle privatizzazioni, Letta alla Brody. Burocrazia e semplificazione. Ma come Letta? Napolitano alla giustizia. Ma come Letta? Ma Letta l'ha fatto fuori? Come Letta? Il suggerimento che arriva dagli Stati Uniti punta sulle persone esperte e lascia perdere i giovinotti, perché se no affondi. Capito Veronica? Gli Stati Uniti ci guardano. È che sarebbe proprio contro la linea renziana, cioè lui quello che ha fatto l'ha fatto proprio perché lo fa da solo, perché in qualche modo si è fatto terra bruciata intorno, anche troppo, e lui un po' lo sa, infatti adesso questa foga, no, nella comunicazione, questi soldi da spendere per questi manifesti, perché l'ansia è quella che poi la gente lentamente si stia scollando. Mm. Quindi questa angoscia di comunicare è fortissima, ma l'idea che lui possa mettere persone che abbiano uno spessore, che possano essere autonomi e indipendenti nel pensiero, non è proprio contemplata. Pensate cosa sarebbe Napolitano alla giustizia, forse finalmente avvieremo un percorso di riforma di questo settore. Napolitano alla giustizia. Sì, anche lì ci sarebbe qualche contraddizione per il politico della rottamazione se mettesse Napolitano alla giustizia. Ma no, infatti a me dà l'idea di, insomma, che debba andare un po' più avanti, accelerare. Se pensate, però, insomma, che il governo oggi imbarcherà Verdini, che darà la fiducia e sarà formalmente parte della maggioranza, capite che questa contraddizione rispetto a Napolitano... Ah, no, questo sì, infatti ci sono due notizie che oggi campeggiano sui giornali. La prima, allora, l'annosa questione delle unioni civili, pare tutto deciso. Allora, faranno un maxi emendamento, toglieranno la stepchild adoption, stepchild adoption, a quella roba lì, lasceranno comunque la reversibilità e metteranno la fiducia, e così, insomma, vince Alfano, come sempre, come vi avevo detto 10 giorni fa, vince Alfano. In realtà, come sempre, no, dicevo, Alfano non aveva il quid, adesso c'è il quid, quad, quad, tutto grazie a Renzi, è stato fatto diventare un politico che incide, un politico il cui parere è tranchant proprio rispetto alle decisioni, è il massimo del paradosso. Vince Alfano, ma la vera notizia sui giornali non è questa. Ce n'è un'altra, caro Angelo Maria Perrino, come si dice se fosse un quotidiano di carta il tuo, alle 22 smonta tutto, c'è la notizia della prima pagina, c'è tutto da rifare, c'è la notizia di prima pagina. Silvio Berlusconi, c'è una notizia che riguarda Silvio Berlusconi. Si è messo un casino tra i giovani, meglio lo scrive il Corriere della Sera. Silvio Berlusconi sarebbe diventato vegetariano. Povero Silvio. Ma perché povero Silvio? Tu ammazzi gli animali. Che brutto male la vecchiaia. Che domande surreali che fai. Mi hai veramente chiesto, tu ammazzi gli animali. Tu sei sempre quello dei mozziconi, no? Sì, sono quello dei mozziconi. Sei sempre lui. E alla fine hanno iniziato a spegnerteli in testa. E che spiega questa domanda, no? No, ma figurati, anch'io, era una provocazione. Anch'io non sono vegetariano. Però pare che Berlusconi abbia detto... queste povere bestie. Berlusconi possa rinunciare alla carne è già un ossimoro. Hai capito? L'ha battuto la Veronica. Capito? Hai capito la Veronica? L'ha battutona. È che mi sono svegliata con Roma Capoccia, perché sennò non veniva questa. Certo. Ficcante. Hai capito. Però questa è la verità. Pare che, insomma, queste bestioline, sa, la vicinanza della brambilla, insomma, basta, non ce la faccio più a mangiare carne, Berlusconi. Dice così. Con questo pressing della brambilla dell'orecchio, uno a un certo punto non ce la fa più a mangiare. Non ce la fa più a mangiare carne. Perrino, questa è la notizia del giorno, è inutile. Non fate ironia. Berlusconi vegetariano. Invece, sul caso Berlusconi, la notizia del giorno, appunto, oltre a questa, mi sembra quella che riguarda i giovani di Forza Italia, difficoltà, perché il leader dei giovani aveva una fidanzata che pare essere stata insidiata, concupita, da Berlusconi. Mamma mia. Allora vedi che la battuta della carne era pertinente, allora. Sì, vedi. L'intero gruppo, per protesta contro Berlusconi, si è trasferito sotto l'ala dell'ala di Verdini. Hai capito. Ma cioè... l'ala di Verdini è l'ala che accoglie tutti e protegge da tutto e da tutti. Sì. E vabbè, che devi fare? Quindi in realtà i giovani di Forza Italia sono andati via perché ha tentato di concupire una fidanzata di uno di questi. Quindi il difettuccio della carne c'è sempre. Il cruccio c'è, però diciamo che i ragazzi anche sono stati imprudenti, no? Qui è come quando si dice alle donne di non mettersi la minigonna, queste cose così, le porti da Berlusconi, insomma. Vabbè. Che dobbiamo fare? Esatto, la carne Berlusconi, la carne è quella degli animali, niente, non la mangia più. Invece la carnazza, insomma, vabbè. È Veronica che ha introdotto l'argomento. Perché la colpa è tanto sempre mia, io figurati. È sempre tua, è sempre tua. È quella che butta ancora i mozziconi per strada, signore e signori. Io. Veronica Gentile. All'origine c'è stato un equivoco sulla parola carne. È chiaro, è stato un misunderstanding, ma è sempre Milan che cerca di creare queste cose. Vabbè, andiamo al traffico, che poi vi faccio sentire il vero trionfatore. Alfano, sulla Stepchild, sulla Stepchild Association Adoption, Alfano è il trionfatore sulle unioni civili, è lui col suo 0,3%, non lo so, Alfano, tra poco. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo, le corna belle. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Li odia proprio Renzi, 5 Stelle. Non ha ancora capito che i prossimi a salire sono loro e lui se ne va a casa definitivamente. Mila, volevo sapere questo. Siccome che dicono di essere solidali, accettare di essere comunitari, ma vorrei sapere quanti politici hanno in casa un extracomunitario. Solo uno di questi 1000 che sono in Parlamento. Vorrei proprio saperlo. Grazie a questo governo, caro Mila, ci stiamo avvicinando, stiamo somigliando sempre di più alla Grecia. Io sto già cominciando a ritirare i miei 4 soldi che ho. Ci metto un attimo, voglio dire. 24.000 forestali in Sicilia, praticamente una pianta a testa. Alessandro Milan, il nostro eroe. Solo lui può sbloccare la Stepchild Adoption. Ascolta Mila, io non sono fiorentino, ma come il tuo amico di Firenze, proprio guarda, non ce la faccio, non ci riesco ad ascoltare quella voce. Per favore Mila, spegnila. Ma no, ma che è il fiorentino, attenzione, comincia a innervosire. Allora siamo con Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani.it, e Veronica Gentili, alla quale danno anche un 9 più alla risata. Capito. E poi sentiamo qui ancora da WhatsApp qualche commento dei nostri ascoltatori. Ma se do un 10 al governo Renzi, mi danno un posto come sottosegretario? Bene. Veronica Gentili, 10 lode, non solo per il canto. A Milan, per Veronica, c'ho da fare una serenata, che fai? Vieni con me, dai, Vabbè, su, sembrava di Roma. Quanto mi sono pragmatici. va bene. Allora, caro Perrino, ha vinto Alfano. Sentilo qua, Alfano. Adesso mi dici, Alfano. Stavolta mi sembra che ci sia razionalità e buonsenso. Sì ai diritti per le coppie anche omosessuali, per i componenti delle coppie anche omosessuali, non mettiamo di mezzo i bambini che hanno bisogno di un papà e di una mamma. Ho anche una sentenza della Corte Costituzionale. E quindi chi ha due mamme e due papà? Ci sono le leggi che già lo consentono. Per questo è anche inutile la Stepchild. È inutile, ha vinto alla fine, no? Capito? Ma... Alessandro, io devo dire, siamo obiettivi, ha vinto le coppie di fatto in Italia hanno vinto, anche perché sulla questione della Stepchild ci sono sentenze ed è compito della magistratura capire se l'ambiente in cui il bambino dovrà essere integrato è adatto oppure no. Ha vinto quindi la saggezza e l'equilibrio dopo il voltafaccia dei grillini, perché Renzi voleva approvarla tutta questa legge, sì, col canguro, i grillini però si sono ritirati e ora nell'interesse di tutte le coppie di fatto è bene che la legge venga approvata. Come sai, la lettura della politica la puoi ribaltare in modo diverso. Si sono ritirati, il Movimento 5 Stelle dice approviamola adesso, discutiamola e siamo totalmente favorevoli a questa legge. Io non così sono com'è d'accordo. Ho criticato, l'ho detto anzi, no, con grande sorpresa e anche dispiacere del Movimento 5 Stelle per questo sillogismo che sono scritto sul Fatto Quotidiano, necessariamente sia grillino debba difendere tutto quello che il Movimento 5 Stelle fa, e non è così. Loro hanno sbagliato, a mio avviso, sulla libertà di coscienza inserita in corsa e dal mio punto di vista, però questa è proprio una scelta personale, secondo me forse è quella che è la finenza alle regole, che erano regole comunque molto importanti relative al canguro, si poteva anche optare per una maggiore elasticità in nome della legge che era necessario che passasse. Detto questo, loro hanno un loro codice interno, delle loro regole, e poi era anche una tattica politica, cioè non vogliamo fare la stampella del governo Renzi per tamponare quelli che sono i conflitti interni tra di loro, che sono completamente spaccati. Veronica, se mi consenti, però questo sì, è un po' politichese, nel senso che poi con quel tuo ragionamento dimentichiamo l'obiettivo, che è dare agli italiani una legge che oramai è necessaria e urgente. Lo so, Angelo, però questo significa contestare proprio, cosa che si può fare, però quella che è la struttura di pensiero del Movimento 5 Stelle. Loro sono ortodossi sulle regole da sempre. Ma in questi casi crescono... devi pensare ai cittadini, no? Non più ai singoli. Possiamo essere d'accordo, non a caso è una mossa che io non ho condiviso, ma è la loro strategia e il loro modo di lavorare. Ma anche perché poi hanno aggiunto, discutiamo la legge, quanti emendamenti sono rimasti? 500? Il risvolto arriva sulla parte finale. Nel momento in cui ci sono come fecero con Bersani, che non vollero, tirarono fuori Rodotà e persero 2 anni nella loro... Insomma, diciamo che qui... Questo caso io non sono d'accordo, perché purtroppo l'uscita finale di Renzi racconta che non è così. No, ma io capisco quello che... capisco quello che vuol dire Perrino, cioè dire arrivati a un certo punto, se stai in Parlamento, ci vuole anche un po' quel pragmatismo che si scontra con l'ortodossia delle regole, ma è sacrosanto che ci voglia. Infatti se si può fare una critica ai 5 Stelle da sempre, che è anche, se vogliamo, quella su Roma, che non si sta candidando Di Battista e che stanno candidando della gente più debole, quindi anche lì c'è il rischio di perdere la città con la regola, poi senza tutte le dietrologie che Di Battista in Parlamento è il loro modo sono di due procedere. Modi di vedere la politica, la politica è anche un po' l'arte del compromesso, ecco, ci sta dicendo Perrino, quando vuoi un risultato, e invece ma i grillini non cedono. Io li ho molto contestati per questo però non può far dimenticare tutte le contraddizioni interne al PD, non a caso quando la Cirinna per un attimo si è sbottonata. La vera faida sono stati Gattodem, lo sappiamo. Veronica, tu, secondo me è una logica troppo romana, vieni qualche giorno a Milano. Io penso che i 5 Stelle hanno perso una grande occasione per mettere la loro firma sopra una delle leggi più importanti dal dopoguerra, paragonabili al divorzio, all'aborto, eccetera, eccetera, in materia hanno di perso costume. Un po' l'occasione. Tanto che pare che vogliano uscire dall'aula ora, scrive il Corriere della Sera, nel momento del voto. Però questa è poi la parte così un po' folcloristica del discorso. Secondo me, nella concretezza, loro si sono comportati in questo modo. Di fatto, poi Di Maio, però, la prima cosa che ha detto dall'annunziata subito dopo l'uscita di Renzi, noi siamo per la legge. Votiamo emendamento per emendamento, ci mettiamo la faccia al 100%. E lì verrebbe votiamo da dire col cavolo da parte del PD, perché se svuotano emendamento per emendamento rischiano di andare contro qualche sconfitta. Ma è la politica. Mi devo fermare, però aspetta. Un leader che in questi casi interpreta e dà la linea. Devo segnalare che Veronica Gentili ci ha mandato il selfie, mentre Angelo Maria Perrino ancora no. Attendiamo una foto, un selfie, fai quello che vuoi, Angelo, anche 3 mandarini come l'altra volta, 2 arance, quello che vuoi. Mi posso lasciare con Lucci? Lucci, Enrico Lucci, straordinario, la Formigoni per i 2 anni di Renzi. Intanto vi saluto, Veronica Gentili, Angelo Maria Perrino, ciao. Robertone, eccomi. Ciao. 2 anni di Renzi, ha fatto bene o ha fatto male? Ha fatto più bene che male. Governo Renzi e nostro. Vostro di chi? Nostro, nuovo centrodestra. Ma perché state nel governo voi? Certo, come no. Cazzo, me ne sono mai accorto. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici di 24 mattino, eccoci qua, siamo pronti alla rassegna stampa. Mi raccomando, state con noi, perché abbiamo tante notizie da raccontare dai giornali, abbiamo tante notizie da approfondire più avanti. Ci occuperemo della sanità in Lombardia, dell'ultima inchiesta che ha terremotato e ha fatto scoprire presunte tangenti. E che dire, dobbiamo tuffarci subito nella lettura dei giornali? Ma sì, dai, facciamolo. In questo martedì 23 febbraio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore si dedica alle borse, sprint dal greggio, Milano sale con le banche, questo è il titolo di prima pagina. Poi ci sono alcuni quotidiani che puntano sulle unioni civili.